Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Professione capro espiatorio e Benjamin Malossin, personaggio seriale creato nel 1985 dalla penna del francese Daniel Pennac. Malossin e la sua stramba famiglia sono tornati in un nuovo romanzo che si intitola Il caso Malossin, pubblicato in Italia da Feltrinelli. In realtà il romanzo è diviso in due volumi, è stato pubblicato il primo con il sottotitolo Mi hanno mentito. Malossin mancava dal 99, da quando era stato pubblicato La passione secondo Thérèse, ultimo volume appunto della fortunata serie cominciata con Il paradiso degli orchi, che in Italia era arrivato nel 91, e poi era proseguita con opere famosissime come La fata carabina e La prosivendola. Nel nuovo romanzo i personaggi della famiglia Malossin sono invecchiati di 20 anni. Il mondo intorno a loro è fatto di corruzione, soldi, traffici e violenza. Il romanzo si apre con il rapimento di uno degli uomini d'affari più ricchi d'Europa, Georges Lapietà. I rapitori chiedono un riscatto enorme, ma a una cifra proprio precisa, cosa che fa pensare, diciamo, a una sorta di restituzione. Come nei romanzi precedenti, Benjamin finirà, diciamo, suo malgrado per essere coinvolto in una storia piena di colpi di scena, equivoci e false piste. Ma perché il personaggio di Malossin è tornato ora? Insomma, perché lo voleva lo scrittore o perché i lettori ormai erano diventati, diciamo, insistenti? Sentiamo che cosa ci ha raccontato Daniel Pennac. Le due. Mais c'était surtout l'envie de retrouver l'écriture malossinienne. Entrambe le cose, ma ho soprattutto voluto ritrovare la scrittura di Malossin, che è una scrittura specifica che ho inventato per questi personaggi. Una scrittura diversa dai miei altri libri, come un romanzo, diario di scuola e storia di un corpo. Ho proprio avuto voglia di ritrovare quella scrittura, e questo è il primo motivo. Poi, naturalmente, sapevo che i lettori lo aspettavano. Anche mentre facevo i firmacopie di Storia di un corpo, capitava che i lettori mi chiedessero: «Allora, tornano i Malossin? Quando tornano?» Ne ero consapevole, ma questo aspetto non è stato determinante. È stato più il desiderio di ritrovare questa scrittura. Se vuole, on peut utiliser une métaphore. Ma che è una metafora giusta. Se vogliamo, possiamo dirlo con una metafora che è proprio adatta. Io sono diventato più anziano. Dall'85 al 2007 sono passati 32 anni. In questi 32 anni ho perso mio fratello, a cui volevo un bene incredibile. Era davvero il mio alter ego. E la metafora è questa. Tornando a scrivere i Malossin, credo di aver voluto fare di nuovo il bagno in quel fiume, in quel piccolo villaggio in cui mio fratello ed io passavamo le vacanze estive e in cui siamo cresciuti. È stato proprio un ritorno a questi momenti dell'infanzia e della gioventù. Come se io, a 70 anni passati, avessi voluto rituffarmi in quell'acqua chiara e limpida, un'acqua che rievoca le risate e la vita, i momenti passati insieme a mio fratello Bernard. È una metafora che è lontana dal testo, ma è davvero esatta perché esprime quella spensieratezza che si è tradotta come una spensieratezza narrativa. Ho potuto scrivere quello che volevo, come volevo, dicendomi: viva la gioventù, viva Malossin. T'écris ce que tu veux, comme tu veux, avec l'écriture que tu veux et... Vive la jeunesse, vive Malossin. In questi anni che sono passati, naturalmente sono cambiati anche i protagonisti della saga di Malossin, nel senso che anche per loro sono passati 20 anni, si trovano in un mondo diverso, un mondo per esempio dove c'è il web, i social network, c'è Skype, c'è Twitter. Com'è stato il loro passaggio, insomma, dalla metà degli anni 80 ai tempi nostri? Che mondo si sono trovati davanti? Ça s'est passé... comme chez vous, comme chez nous, comme dans la réalité. C'est-à-dire que la nouvelle génération... Le cose sono cambiate come da voi, da noi, nella realtà. La nuova generazione, quindi Verdun e Maracuja, hanno una grande familiarità con questi nuovi mezzi. Mentre Benjamin è perso, come lo è sempre stato del resto. Per quanto mi riguarda, a prescindere da qualunque progresso tecnologico, sono sempre estremamente stupito. Per esempio, quando torno a casa la sera e schiaccio l'interruttore e si accende la luce. Ecco, c'è un senso di meraviglia. Lo so che è normale accendere la luce, ma mi sento stupito in un modo quasi primitivo. Quindi, nel caso della tecnologia, non è il buio che diventa luce, ma è una cosa lontana che si avvicina in un secondo grazie alla tecnologia. Ho sempre questa sensazione di sorpresa e di meraviglia. Benjamin Malossain, appunto di professione capro espiatorio, possiamo definirlo così. Prima lavorava ai grandi magazzini, adesso lavora in una casa editrice. Ma Daniel Pennac, in che situazione si è mai sentito capro espiatorio di qualcuno o di qualcosa? Moi personnellement, mais oui, mais tous les enfants quand ils se font gronder se sentent capro espiatorio. Io personalmente? Beh, come tutti i bambini, quando vengono sgridati, si sentono capro espiatorio, a torto o a ragione. In genere non sono capri espiatori, ma colpevoli di aver fatto qualcosa, ma si sentono in questo modo. E io ero proprio come tutti gli altri bambini. Mi sentivo capro espiatorio. Da adulto ho imparato a resistere a questo sentimento. Mi sono liberato della colpevolizzazione sociale. È molto difficile farmi sentire in colpa a livello professionale o sociale. È molto difficile riuscire a malossemizzarmi. Ça c'est aujourd'hui c'est très très très difficile de me malossemizzare. In questa prima puntata, diciamo, del caso Malossain, in questo primo volume, Benjamin deve prendersi cura di uno scrittore che teme ritorsioni da parte della sua famiglia per un libro che ha pubblicato e che racconta troppo, evidentemente, di loro. Nella sua vita di scrittore, le è mai capitato che qualcuno si sia arrabbiato per qualcosa che ha scritto e che magari aveva tratto spunto dalla realtà? Non. Non, non, moi j'utilise pas, je n'utilise pas la, la littérature comme une arme. No, io non uso la letteratura come arma per vendicarmi. Se ho qualcosa da dirti, te lo dico. Non mi diverto a trasformarti in un orribile personaggio di un romanzo. Personnage de roman. Ricorda il momento esatto in cui le è venuta la prima immagine di Benjamin o di un altro dei personaggi della famiglia Malossain? Cioè, come proprio se l'è immaginato? Che flash ha avuto in quel momento? Ma un po', avec Benjamin, c'est clair, c'est en 1983. Sì, nel caso di Benjamin Malossain è molto facile. Nel 1983 ho letto un saggio del filosofo francese René Girard che si intitolava Il capro espiatorio. E per dirla un po' velocemente, perché in realtà il pensiero è più complesso, l'idea era questa. Ogni gruppo umano si costituisce attraverso l'emarginazione di un membro di questo gruppo, a cui vengono attribuiti tutti i difetti. Ed è proprio l'esclusione di questo singolo che consolida il gruppo. Questo, secondo il filosofo, è anche il principio fondante del cristianesimo. Gesù prima è escluso. Gli vengono attribuiti tutti i difetti e tutte le colpe. Dopodiché viene sacrificato e infine sacralizzato. E quindi il gruppo che si era creato sull'esclusione di Gesù Cristo si consolida attraverso la sua sacralizzazione. Ho trovato quest'idea assolutamente geniale, perché la vedevo all'interno delle famiglie, per esempio. Un membro della famiglia che dice: «Meno male che tu non sei come zia Francesca o come zio Alberto, perché noi siamo diversi». Ma questo meccanismo del gruppo che si crea con l'esclusione del capro espiatorio l'ho visto anche nelle classi dove ho insegnato. Ho pensato che potesse essere molto interessante farne un personaggio, cioè inventare un personaggio che fosse assunto e stipendiato per prendersi le colpe al posto degli altri. Ho incontrato il filosofo Girard e gli ho detto: «Se tu me lo permetti, vorrei creare questo personaggio». Lui si è molto divertito e mi ha detto che per lui andava bene. E nel Paradiso degli Orchi, le due frasi in epigrafe sono di Girard. E dans Au bonheur des ogres, le due frasi en exergue sono des frasi di René Girard. In un altro suo famoso libro parla dei diritti dei lettori. A me piace molto il diritto, per esempio, di saltare alcune pagine quando magari le descrizioni possono annoiarmi, o anche il diritto di interrompere un libro se, insomma, non si ha più piacere di leggerlo. Fra i diritti dello scrittore, invece, c'è quello di abbandonare un personaggio molto amato dal pubblico, anche se i lettori lo chiedono con forza. Est-ce que je vais tuer Malocène? Forse ucciderò Malocène. Peut-être. Potrei. J'ai le droit. Ne ho il diritto. Sa che questo scatenerebbe una rivoluzione. Non mi importa. C'est ce qu'a fait Conan Doyle avec Sherlock Holmes. Credo che Conan Doyle l'abbia fatto con Sherlock Holmes. A un certo punto non ne poteva più di scrivere di Sherlock Holmes e aveva deciso di ucciderlo. Se non erro, facendolo precipitare in una cascata. Ma poi sua madre gli disse: «Sei pazzo! Con tutti quei soldi che ti fa guadagnare Sherlock Holmes». E quel cretino di Conan Doyle ha fatto resuscitare Sherlock Holmes. Un altro dei suoi libri che mi è piaciuto moltissimo è La storia di un corpo. Anche in quel caso avevamo realizzato un'intervista per Radio 24, proprio perché dà la sensazione del passare del tempo, dei cambiamenti fisici e mentali col passare del tempo. Visto che stiamo parlando anche di tempo che passa, no? Sono passati 20 anni dall'ultimo Malocène, come vive lei il senso del tempo che passa dal punto di vista fisico e dal punto di vista invece psicologico, interiore? D'un point de vue physique, ça ne te regarde pas. Da un punto di vista fisico la cosa non ti riguarda. Mais c'est un paradoxe, évidemment. Ma sì, è un paradosso perché tutto cambia, ma esiste un forte senso di permanenza delle cose. Lo vedrai quando sarai vecchia. Ed è proprio questo paradosso che è interessante per me. Come mai mi sento ancora giovane se di fatto sono anziano? Come mai sento ancora questa pulsione creativa? Avverto ancora la voglia di scrivere e di creare che avevo a 30 anni, quando è ovvio che non ho più 30 anni. Proprio in questo paradosso, per me, risiede l'interesse della vita. Da un punto di vista intellettuale, è estremamente interessante e costituisce proprio la gioia di vivere. Perché se ci concentriamo solamente sul cambiamento, se ci concentriamo sul fatto che non riusciamo a fare più questa o quell'altra cosa, quante volte a notte, è ovvio che saremo avviliti per non essere più quello che eravamo. Ma la cosa interessante è questa, perché io sono anche quello che ero. Sono profondamente diverso e sono profondamente uguale. Questa cosa è molto interessante dal punto di vista intellettuale. E possiamo aggiungere questo. Il sentimento di permanenza è un sentimento che si mantiene. Io mantengo le mie amicizie, i miei amori, vivo con la stessa donna da 35 anni. Da 25 anni ho amiche a cui voglio bene, che stuzzico e con cui mi diverto. E ci conosciamo molto bene anche se non ci vediamo. E questo è un modo, inconscio se vogliamo, di lottare contro il tempo che passa. Ci sono persone che conosco da tantissimo tempo e non mi sono accorto che stessero cambiando. La permanenza delle relazioni con le persone è la cosa che mi piace e che amo. Non amo le amicizie di circostanza, di passaggio. Queste sono cose da seduttori. E questo era Daniel Pennacco, in libreria con Il caso Malocène, mi hanno mentito, pubblicato da Feltrinelli. Breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB+. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Vi presenta Il cacciatore di libri. Passo di back and forth, tutto cresce e se ne va. Passo di bello, va bene a chiù.

le persone che amiamo e che ci amano. C'è la metafora della rondine che torna al calar della sera sotto le pergole, la rondine primavera che è un personaggio importante del romanzo, e in questo caso il concetto di casa può essere ampliato sicuramente al, come concetto di radici, alla mia città, alla quale torno per ricevere quelle attenzioni e per trovare il coraggio di spiccare il volo, che è un tema anche importante del libro. E infatti in copertina di questo libro ci sono delle rondini non a caso. Grazie a Lorenzo Marone, ora in libreria con Magari domani resto, pubblicato da Feltrinelli. Grazie a voi. Un romanzo che parla di casa, che parla di radici, che parla di volontà di cambiare la propria vita. La protagonista, l'abbiamo detto, è Luce, una donna di 35-36 anni che fa l'avvocato penalista e che si trova ad affrontare un caso di affidamento di un bambino che è destinato a cambiarle la vita. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. La Prima Guerra Mondiale ha avuto la sua meglio gioventù. Erano i ragazzi nati nel 1899, ultima leva ad essere chiamata alle armi. E quest'anno diventano maggiorenni altri ragazzi del 99, nati 100 anni dopo, nel 1999. Diventano grandi non in guerra, ma partono anche loro per studiare all'estero, per conoscere il mondo grazie ai viaggi low cost, per fare volontariato per una gara sportiva. Radio 24 ve li racconta i ragazzi del 99, incontrandoli e facendoli parlare. Di cosa fanno, cosa vorrebbero cambiare, come disegnano il loro futuro. Ritratti di ragazzi straordinariamente normali. I ragazzi del 99 di Maria Piera Ceci. Il sabato alle 14.30 e la domenica alle 9.30 su Radio 24. Il cacciatore di libri. Un romanzo che parla di adolescenza, che parla di due ragazzine, Vanessa ed Erika, che parla della loro amicizia, amicizia come spesso accade durante l'adolescenza, proprio assoluta, amicizia che quasi diventa amore. Queste due ragazzine sono inseparabili e sono anche unite da un stesso desiderio, da un'unica volontà, quello di diventare leggere come libellule. Ma non parliamo di anoressia. Il romanzo si intitola Ellissi, l'ha scritto Francesca Scotti, pubblicato da Bompiani. Francesca, quando si parla del tuo libro spesso si dice queste due ragazzine sono legate dal desiderio di diventare anoressiche. In realtà non è anoressia vera e propria. Che cosa hai voluto raccontare? Qual è, come dire, il tuo punto di vista su queste due ragazzine? Ti ringrazio per la precisazione, perché al di là del dato clinico è interessante dal punto di vista appunto della mia esigenza narrativa, che non era quella di raccontare appunto una storia medica o clinica o di fare un focus su questo aspetto, quanto più di andare ad indagare su quelle che possono essere delle risposte che in adolescenza si danno a questo corpo che cambia, delle risposte che a volte sono risposte in negativo, ovvero serriamo i denti, serriamo i denti, serriamo le labbra, non perché vogliamo essere più belle, più magre o perché abbiamo aspirazioni estetiche, ma proprio perché abbiamo paura di questo corpo che cambia e paura di queste trasformazioni. Quindi l'idea di rifiutare il cibo, rifiutare quindi la fonte di vita, è più per cercare di riottenere il controllo su questa trasformazione. Quindi controllo quello che entra all'interno del mio corpo, che lo alimenta, che gli dà energia, ed in questo modo io controllo la mia crescita, il mio diventare grande, anche il mio genere, anche il mio essere donna in questo caso. Ecco, si parla quindi di adolescenti che vogliono controllare il corpo, perché durante l'adolescenza appunto il corpo è un po' il palcoscenico di tutta la vita, no? Attraverso il corpo esprimiamo tante cose. Sei però consapevole che molte persone potrebbero scambiare questa storia che tu hai raccontato appunto per una delle tante storie di anoressia? Sì, sono consapevole. In realtà la linea è molto labile, e soprattutto è labile nel momento in cui ci si riferisce al termine anoressia in senso medico. Se invece noi parliamo di anoressia come fenomeno sociale, quindi come una parola in grado, una parola ombrello in grado di ricomprendere una serie di nevrosi a livello magari anche meno grave dell'anoressia, perché l'anoressia poi si porta dietro in realtà anche una questione proprio di tempo, di modifiche e di interventi sul corpo molto pesanti, che nel caso delle protagoniste, anche solo per il tempo in cui noi le osserviamo, che non è un un arco enorme di vita, c'è appunto l'idea che sia un passaggio, che sia un attraversamento di una linea d'ombra, che è quella in effetti dell'adolescenza, ma che sia questo, non sia poi l'incistarsi di una patologia, una risposta più che appunto un fenomeno clinico. Queste due ragazzine, Vanessa ed Erika, appunto sono compagne di scuola, sono attaccatissime, ho detto quasi un rapporto che più d'amicizia sembra quasi d'amore, ma spesso succede così durante l'adolescenza. Vengono ricoverate entrambe in una clinica, appunto, dove si curano i disturbi dell'alimentazione. E fra loro c'è un rapporto intensissimo, profondo, fatto anche di fisicità. Questo appunto è una caratteristica tipica delle amicizie femminili, in particolar modo delle adolescenti. Io credo, e in questo caso parlo di esperienza sia personale che di esperienze di ascolto, io credo che la fisicità e quel legame simbiotico, anche fisico, anche di conoscenza del corpo, usando l'altro un po' come specchio e come sodale, come amico, ma appunto anche come compagno di avventure, in quella fase della vita sia da un lato fondamentale, dall'altro necessario. È vero che tra le ragazze, forse più che nei ragazzi, c'è anche proprio questa condivisione della fisicità, cioè il primo momento in cui magari abbassi la soglia del pudore è proprio con l'amica del cuore, le prime esperienze anche di contatto, di scoperte, forse le si fanno lì, perché è comunque un ambiente protetto, che è una via di mezzo tra l'universo bambino e invece quello che è poi quello adulto. E quindi quella che è magari in un momento una solidarietà poi diventa anche una sfida, e se l'asticella si alza sempre di più può diventare appunto anche su territorio pericoloso. In questo romanzo, Lissi, hai raccontato appunto la storia di questa Vanessa ed Erika. Inizialmente Erika sembra essere più la leader fra le due, quella che trascina un po' Vanessa, sia nell'amicizia sia nel desiderio appunto di diventare libellula. Non è un caso che tu abbia scelto la libellula, da come si capisce dal romanzo? Perché hanno preso queste due ragazzine il modello di una libellula? Allora, l'idea era quella di raccontare anche questo discorso alimentare e dell'incontro scontro col problema del nutrirsi, andando un po' al di fuori degli stereotipi. Ora, non è che non ho scelto la farfalla, ho scelto la libellula perché è al di fuori dello stereotipo, ma perché in questo caso il loro desiderio di abbandonare il corpo umano per come lo conosciamo, ad aspirare a qualcosa di così perfetto e diverso, e soprattutto con delle caratteristiche di vitalità, di ferocia, per esempio per la cultura giapponese, che è una delle culture che diciamo mi che accompagna. Tu vivi in Giappone, sei italiana ma vivi in Giappone a Nagoya, quindi conosci bene, esatto, la cultura giapponese. Per esempio il simbolo della libellula, che in giapponese il significato del termine libellula è l'insetto che non arretra, cioè l'animale che non va mai indietro ma va sempre avanti, viene utilizzato per decorare tutta una serie di arte legata all'attività militare. Quindi è un insetto combattente, un insetto al quale viene data sì la leggerezza e la purezza, ma anche la ferocia. La ferocia, e poi c'è una parte nel romanzo dove tu parli proprio di una trasformazione lenta in cui, esatto, la libellula deve stare ferma e aspettare. Esatto, quindi un'evoluzione costante, ma anche con questa capacità di attendere addirittura il momento in cui, per esempio, le ali si induriscono dopo che si è aperto lo scheletro e possono volare, devono aspettare anche in quel momento. E quindi, se da un lato c'è una ferocia e una capacità di essere predatori, c'è anche poi invece una pericolosità, perché in tutta questa attesa è un insetto estremamente vulnerabile che nasce nell'acqua e vive nell'aria. E poi vive nell'aria, quindi al netto di questa onnipotenza c'è in realtà una grande fragilità. Grazie a Francesca Scotti, ora in libreria con Ellissi, pubblicato da Bompiani. Anche per oggi è tutto, grazie in regia ad Andrea Roccabella. Vi ricordo che in questo periodo estivo Il Cacciatore di Libri vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì con le edizioni flash delle 13:10, il sabato come sempre alle 6:30 alle 22, ma anche la domenica con una puntata diversa alle 16:15 alle 20:45. Trovate tutto in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.